para ba ba ba para para ba ba ba para. C'è chi beve, c'è chi fuma, c'è chi ama, può morire come tu, perché ognuno sceglie il modo di morire, a me l'hai deciso tu. E mi gioco la notte bevendo caffè per spiare chi c'è nelle storie con te. I tuoi occhi, il tuo sorriso, la risata che sto tiene solo tu. Nel mio petto sento forte una bussata, ma guarda bene non sei tu. C'era solo la luna come a Saint-Tropez. Quanto male m'ha fatto conoscere te. Excusez-moi, parlez-vous français? Si bella ma senza cuore. Excusez-moi, voulez-vous danser? Tu si piacere e d'ora. Excusez-moi, voulez-vous coucher? Ti s'annamora, mora. La c'è capite che si per me balena, l'amore. Nella notte con la telefona appicciata, papà ne si chiama tu. Tutte le luci rinda stanza già studata, passo una caccia stai tu. Excusez-moi, parlez-vous français? Si bella ma senza cuore. Para pa pa pa para. Ogni tre minuti e mezzo cambio umore e poi non mi pienso più. Poi mi prendi come fossi un ascensore, sai, esci in adoro tu. Sogno che le tue labbra consumano pure le mie, mentre invece consumo solo batterie. Excusez-moi, parlez-vous français? Si bella ma senza cuore. Excusez-moi, voulez-vous danser? Tu si piacere e dolore. Excusez-moi, voulez-vous coucher? Chi s'annamora, mora. La c'è capita che si per me balena, l'amore. Nella notte con la telefona appicciata, papà ne si chiama tu. Tutte le luci in da stanza già studata, passo una caccia stai tu. Si bello ma senza cuore. Tu si piacere e dolore. Chi s'annamora, mora.